Ho torre di controllo, Vases. L'audio. Taxi! Vabbè. Vabbè, drogato. Vabbè, non vedi nessuno. Ah, se non ci sono io non c'è nessuno. Cis, cis. Cis, che schifo, raga. Era andato, vabbè, ho poltrito abbastanza oggi, poi sono andato poc'anzi, 40 minuti fa, a farmi la ricarica telefonica per internet e poi mi sono pigliato anche una bella cioccolata con la panna. Ah, la faccia mia, guarda, la faccia mia, bobbo. Ehi, vabbè, non è che... Poi chissà perché, comunque, se la fai a casa la cioccolata è un conto, ma se la fai al bar, se te la fai fare al bar, chissà perché è sempre più buona, forse perché te la servono. E sai che quando la faccio io a casa esce un burro. No, cioè, è buona lo stesso, però servita sembra ancora più buona. Per forza, se il servizio è riferito, buonasera signora, cosa gli posso servire? Mi prese tu una cioccolata, allora gli dare, ecco la sua cioccolata. Oh, oh, yeah. Bene, adesso aspettiamo che mi attivino l'offerta, così ho lo smartphone funzionante appresso. Ok, alla fine il computer di casa lo si usa solo per scaricare roba. Mamma mia come sto. E una volta facevo tante cose, trasferivo i video al computer con la scheda video dell'acquisizione, masterizzavo, trasformavo da... Aspetta che c'è mia moglie che ti deve dire cosa. E tu assaggi la crema, la cioccolata nostra, se ne leggi le dita. Ah, beh, sicuramente. Noi io a casa usavamo Chobar, ma credo che sia la stessa del bar poi. E infatti usano quella, solo magari che la fanno con la macchina del caffè, scaldano lì, però è uguale. Quella che esce qua, quando la facciamo quella Chobar, esce di lusso. Poi lì dice di mettere o acqua o latte, no, acqua non ne metto perché... metto il latte e se ce l'ho intero lo metto intero, così ha ancora più nutriente e anche più grassa. Infatti, non ce ne vuole acqua, no? Oh, perché il manuale dice aggiungere acqua o latte, sì, ma l'acqua, no, meglio il latte, molto meglio. E te credo, capivo, ascoltando, nessuno, gatto, nessuno, se non ci sono io non c'è mai nessuno qua, gatto. Adesso uno mi ha detto cuocuomane, mi ha detto, boh. Perché sei cuocuomane? Ah, lo vedi che c'è gente allora? Buonasera a tutti. Veramente hai sbagliato il microfono, a tariffe che sono uguali, te lo volevo dire qua, invece te l'ho detto in LPD. Ciao Marco, buonasera a tutti. Ehi. Non c'ero in tutto il giorno, sono rientrato alle 5 oggi, mi sono sdraiato un attimino nel divano, mi ero messo dormente. Sono le 3 dall'ufficio di collocamento, mi servivano i documenti, stamattina sono scappato, per carità di Dio. Oggi c'erano anche dalle 3 alle 5, quindi sono andato, ho messo i documenti e domani mattina devo andare all'Inps. Sono 3 giorni che sto viaggiando a destra e a sinistra. Cerca di sbrigarti e di sbrigarti tutte quelle cose, se no è un macello qua, capito? Marco, ti volevo dire, che processore c'hai nel computer tuo? Io ho anche 2 banchi di RAM da 2, quindi sarebbero 4, possiamo potenziarlo il tuo. Al limite ci mettiamo, se la scheda madre tua usa questo processore qua, ti do un 5200 della Intel, dual core. Oh, Guarda, per me è arabo, non so niente, non so che processore c'è, per me è arabo. Io ricordo che il computer l'uso, ma non lo tocco, lo deve fare il tecnico. L'ho sempre interpretata così. Non mi piace mettere mano dentro. E vabbè, quindi non so niente. Non so nemmeno la velocità del bus lì della scheda madre, che sarebbe la velocità di intercollisione di tutte le periferiche, no? Cioè scheda video, scheda audio, tutto quanto. Devo ancora cannibalizzare quel computer, ma lo dico sempre, è da anni, da roba di 2 o 3 anni che lo devo cannibalizzare ed è sempre lì in corridoio. Quando ti decide troppo tardi, lo apriamo e lo smontiamo assieme, no? Se ci vuole. Vieni qua, così ci bilemmo burro caffè alla faccia di anno fu. Eia, comunque stavo un po' ridimensionando le cose. Perché sai, io spendendo in cagate, spray, in ovvia, hai capito, quelli spray da difesa, antenne, antenini, antennoni, PC202 Diamond, cioè alla fine volevamo tentare, siccome io ho già, io un centinaio, 100 euro da fare. A Natale diventeranno il doppio, credo che un altro centinaio di euro entreranno, sono 200. Volevamo provare di rimettere in moto la moto, cioè fare assicurazione, batteria, revisione e poi i bolli me li pago per conto mio. E infatti piano piano se li paghi. Praticamente boh, 2 bolli me li devo fare, ma li costa pochissimo, mi pare sia 20. Dai 20 ai 25 euro forse 26, non è molto. Se li paghi una alla volta, quanto ci vuole. Buonasera. E adesso l'inverno te la rimetti a posto. Sì, già, io la moto l'ho già tutto l'anno, lo scooter, ma anche le altre moto, io non è che le usavo solo in estate perché sarebbe inutile, tutto l'inverno. C'è il parabrezza, poi c'è lo scudo per le gambe, poi volendo, se proprio uno ha freddo alle gambe, si prende uno di quelli, non avete visto quelle coperte da scooter che si mettono sulle gambe e si agganciano allo scudo? Ci sono quelle, ma mi sembra proprio da pensionato. Quando dice, sai cosa fa? Sta per cadere, voglio obbedirti, a mettere la gamba in terra. Ti si inceppa nella gamba e ti fa male. Ci ho pensato, ma io credo si agganciassero nella parte alta dello scudo, cioè che tu volendo puoi mettere le gambe lateralmente, non lo so, però non è comodo quelle cose, non mi piacciono, dai, sembra una specie di sedia a rotelle con la copertina. Sì, quasi quasi non vai in moto, poi sei in macchina, si comincia a coprire qua, a coprire là, la bellezza della moto è che ti fa sentire l'ebbrezza, che ti va in faccia, proprio il vento, gli odori, tutte queste cose qua. Io apprezzavo molto in primavera, quando c'erano i fiori, sentivo proprio il profumo che tu non senti in macchina tanto, in moto lo senti, in bicicletta lo senti, ma in macchina queste cose non le senti, i profumi dei fiori. Vabbè che direttamente l'aria in faccia non arriva perché ti ho detto c'è il parabrezza alto, proprio vero e proprio parabrezza. E ti dirò che rispetto a una volta il parabrezza è stato utilissimo. Non avevo le altre moto, le Honda 400, veniva proprio la massa dell'aria addosso, no? Invece col parabrezza è un bijou, almeno in inverno è un bijou. L'estate si può anche levare, tanto è facilissimo da levare. Si frena la moto comunque. Sì, più frenata di così la vuoi quella. Secondo me c'è da rifare i rulli e la cinghia di trasmissione. Che fai? Ci dici di tenerla fa. Assolutiamo tra spese, spesine e spesucce se riusciamo a rientrarci. E se no, io tu dici tienili, prima o poi ce li avrai i soldi, no? Tra Natale, San Marco, onomastici. Solo che io le mani bucate, mi viene tutta la meningite quando vedo su internet tutta quella roba da comprare. Perché dopo vi la lascerà a parte, non lo utilizzerà nemmeno a piacere. Tanto li riprendi, con la ciao già, buonasera, cazzo, si dà via 50 capi prima, la mano destra me l'ha giusicato già, che io la usavo anche per fare la spesa, tutte le commissioni in moto, non ne pigliavo più macchina io. Già lo so, perché anche io quando andavo a fare i documenti, roba del genere, andavo con l'idea a 5 minuti, trovavo subito il parcheggio e via. Si lasciava mai il parcheggio, se togli la macchina dopo devi penare. Io vabbè, quel problema non ce l'ho perché c'è posto macchina per cancello dentro però quel chi non ce l'ha anche qua è un casino. Lo so, beh, a te che ce l'hai il posto macchina, ma non ti tirare, io già li ho avuti 50 che faccio più. Era 50, ma quando tu camminava, a 4 centi, tu ma mezzo di lì, cosa ti posso dire? Come schiacciamo il tutto se ne sembra in moto? Una bomba era in questa moto, me la giudizia. C'era il bisogno di tutti e me l'ho sentita. Però era nuova, nuova, quella moto. Non lo so, non era il tuo nipote. E quella che è caduta mio nipote non ne ha voluto più sapere, allora il padre l'ha venduta a me, capito? E poi vendila a me Angelo, tanto cosa la vai, pratica anch'io, e me la vendi qua. E dopo la stavo usando io, a un certo punto ho avuto bisogno di soldi e me la sono dovuta prendere, sennò è lasciata ancora in occhio sta moto. La moto è utile, come è pericolosa è utile. Vabbè, ma se ci stai attento è difficile, vabbè, io ci ho caduto una volta al suolo, ma per colpa di una sosta che stava provando i freni e praticamente ha puntato, ha frenato di colpo, io con la moto nuova sono andato a frenare e mi ha pizzato, mi si è girato da fermo, mi si è girato il volo in manubrio e praticamente sono caduto di lato e sbattuto sul cornicione che c'era sulla moto. C'era presente quel cornicione, che era senso unico alternato, sia in un senso che nell'altro, poi hanno aperto anche la tappata. No, io gli andavo piano, tutto. Qua, la usavo solo per fare le commissioni la moto, troppo utile era. Se mi si via una cassareva, per esempio, andavo alla Sisa in via Giovanni Pascoli, mi pigliavo la leva, Zirabunino, la Bedana, in Chivu, a casa, fatto. C'avevo il bagaglietto per mettere il casco, capito? Lì ci mettevo anche le buste quando, quando avevo altra cosa oltre l'acqua. Era la mano destra, guarda, me ne sono convinto a luce da me la vinduta. Era uno scarabeo dell'Aprilia 50, cazzo, bellissima era quella. Poi io ero di mani, tu Luisa. Avevi anche il bauletto? E io il casco lo mettevo dentro il bauletto, capito? C'era il bauletto, più nella pedana ci stava anche una cassa di bottiglie d'acqua. È un peccato quando si perde una moto, uno scooter. Guarda, lo scooter per città anche 50 va più che bene, è un bijou. Al limite sai perché uno prende 125, non tanto per, giusto perché costa meno l'assicurazione. In città è di lusso veramente, poi se funzionasse bene, insomma, sai. E lì un po' la trasmissione, un po' c'è qualcosa da fare, o i rulli o la campana, non lo so. Comunque, per adesso marcia, capito? Infatti io vado piano, non vado veloce. Non c'ho più l'abitudine, dico, a parte che... E poi consumo, c'è da contare quello, lo consumo a pochissimo. Ehi, no, dicevo, a parte che la ciclistica dello scooter mio... Per carità di Dio, cioè io sono passato da una vera moto a uno scooter che non ha peso nella ruota anteriore, c'è il motore dietro, tutto sbilanciato, è una bara. Io ho provato a fare una manovra e facevo con la moto ricollando a 400 un po', provato a schivare una buca, cazzo, ha cominciato a oscillare il posteriore, l'ho sentito oscillare porosamente, mamma mia, ho detto questa è una bara. E vabbè, lo scooter, poi non è un scooter sportivo, è uno scooterino, già lo sai, no, è Liberty, non è roba per fare gincane, insomma. E vabbè, comunque, ma se riusciamo a metterla a posto bene, se no, il volere del Signore, vai Claudio. Claudio? Ma voi freddo, ne avete? Beh, io ancora non tanto perché ero fuori, ero in movimento, sono arrivato da poco, da 5 minuti. Mi avete sorpreso, sto sotto le coperte, ma mi sono messo la coperta di somma adesso, una di quelle morbidose, di quelle No, non ce n'è, si fa accendere qua, qua c'è il riscaldamento, ma non capisco il perché questo prezzo, se sta avendo l'influenza. Non ti sono stato bene, perché vai meglio il riscaldamento. Sì, devi stare sempre che arrende bene, tu vuoi? Io ho il riscaldamento condominiale con la gasolina. Molto buonasera, ciao Gianni. Mi è sembrato molto gli altri non capito chi sono. Marco mi è sembrato, poi gli altri non lo so. Avanti a pagare. E adesso con chi sei o fra? Allora solo andare rilassato, il turno con chi lo fai? No, negativo, non posso lavorare da solo. Lui non si può lavorare da solo. Se non avessi un'altra persona abitati vicino a me qua a Signori, diciamo che è la mia marca, questo qua lavora a cavolo lo lavora, tutto me l'è previsto. No, Marco Cattegia, speriamo che adesso gli diamo la pensione, via. Lo dovrebbero aiutare, infatti, ci mancherebbe altro. Una volta che gli hanno dato, come si chiama, che non può lavorare più, sicuramente arriva al 100% e per forza gli vanno a lavorare. Ma gli danno quella di inabilità al lavoro, così? Certo, quella di inabilità e poi gli aggiungono i contributi e gli danno adeguata, gli danno la... sicuramente prenderà lo stesso, non quanto stava lavorando, ma a così da me, non gliela daranno. E che andava a 63 in carne, Baro? Diciamo che... non lo so quando gliela daranno, però intanto a così da gliela prendo. Adesso lui se va con quella che... col 100% piglia 700 euro al mese, poi quando arrivi a 60 zincane da te un retto. Ma come si fa? Guarda, stamattina ne parlavo con un mio collega, aveva il 90%, mi sembra che l'avevo detto già, ha fatto la visita giovedì, oh sto parlando, mamma mia chi si aggaccia non si può fare vedacca. Aveva il 90% e aveva giovedì la visita, l'anno scorso l'ha fatta e praticamente gli hanno aggiunto il 10%, l'ultima volta che ha fatto sta gravamente il 100%. Era contento, ha pigliato lo voglio, è andato al patronato. Per farsi i conti fra il patronato ha detto sì, quello del 90%, 80-90% non cambia, sono intorno alle 450 euro di valetta, che hanno altro il 100% ne prendi 700, dice come 700? Ma non prendo, no, adesso prendi 700 euro che è il massimo dell'invalidità, poi quando arrivi a 65 anni ti considerano i contributi lavorati e ti danno la reversibilità. Una vergogna! Lo so, infatti Marco li prendeva già, anche lavorando li prendeva già con le 700 euro, li prendeva, ma non da molto, da poco gliel'avevano abbonati, perché prima prendeva 6 euro al giorno, mi sembra, o un'altruina, ma non me la metto un'altruina. E poi ultimamente gli hanno dato queste 700 euro. lavorando fino a settembre. E adesso l'hanno fatto un abile al lavoro e questa ragazza è solo con 500 euro. E allora chi già? Infatti stava meglio con lo stipendio e con... vabbè che non ce l'ha fatta, quindi no. Ho visto il piede e c'è tutto gonfiato l'altra volta. Quello è il massimo, ah, quello è il massimo, capito? Quello è il massimo, capito? Io lo so anche da mio fratello prende 550 che c'ha il 100%, però siccome sta lavorando, anziché darle le 700 ne hanno dato 550-580, però sta lavorando, biglia 3.500 euro di stipendio, ma l'ha aiutato l'azienda, l'ha messo in ufficio, al centralino, fa le commissioni interne, capito? Non fate più nulla fino al prossimo anno che va in pensione, ma l'ha aiutato l'azienda, se l'azienda non ti aiuta, sei Moaravami. Sì, infatti è quello il problema, infatti l'azienda che abbiamo noi, questi qua, questi bastardi che sono entrati ultimamente, adesso che non li hanno forza, non li ha tutti nudo, non li ha tutti, non sono nudo, non li ha tutti. Infatti l'hanno visto che Marco non ce la fa più, perché io Marco lo conosco anni e anni, lo conosco, e so com'è. Quindi mi vedo sul lavoro a quel ragazzo, lo sta un minuto fermo ed è fiscale anche sul lavoro, è fiscale, e poi alla fine un ragazzo con una valutazione del genere da ciò, sono miserabili so. E quello fra il peccato, capito? Il peccato lì, perché anche questo mio collega, una bravissima persona, ha dato un guru, ha tanti anni di lavoro, è un grandissimo lavoratore. Hanno riconosciuto la validità del 100%, l'azienda non lo può più tenere, capito? Non può più lavorare perché è invalido al 100%, posto per farlo lavorare in altri incarichi non ce n'è, e va a prendere 700 euro di pensione. Ma ha telefonato Bignendi, perché pago al sardo, non è di qua che è di Nulvi, e mi ha detto il sardo che se lo sapeva, a costo di morire al lavoro, però avrebbe continuato a lavorare, perché con 700 euro non si può campare, e tutta la gente dica minnando, inditinandi, pure se sei invalido, inditinandi, tirate una miseria e fai la fame. Claudio, una cosa mi parecchia, una cosa è l'inabilità sul lavoro, sono due cose diverse. Gianni, io sono Gudonto, ho capito, in Abri hanno fatto anche un altro collega che abita vicino a te, ok, che è l'ultima visita che ha fatto, normale così, io l'avevo già visto perché era nella mia squadra, lo riprendevo tantissime volte, le ricordavo che cosa doveva fare, gli hanno trovato l'Alzheimer, Gianni Cotovura come un cane, hanno fatto in Abri nel lavoro, buttato fuori come un cane, prende 700 euro di pensione. Già io non sto facendo i conti in tasca a te, non me la frutti nulla, né di te né di nessuno, io sto parlando per quello che vedo e che sento, io sono tre giorni che sto viaggiando a destra e a sinistra perché il 1° gennaio devo prendere la pensione, oggi ho finito tutti i documenti, ho portato tutta la documentazione all'Inps e proprio all'Inps ho trovato un sacco di persone che hanno questo problema, in abili al lavoro, non posso lavorare, con 100% di pensione tu mi devi mettere in condizione di vivere, cazzo, non che mi devi dare 700 euro al mese, che ti c'è un mutuo e famiglia da campare, con 700 euro va a dormire sotto il ponte. A me mi avevano parlato di 900, non di 700, comunque, adesso vediamo. Rivolteremo tutto, prima di andare io devo fare i conti con la crocetta a cazzo, prima di quanto dice Pulini. E cosa non ti fa il sindacato? A chi il sindacato comanda? Da pronto ti fa i calcoli che ti spettano a 65 anni, cosa ti fa il calcolo di quanto ti devo dare di pensione di validità? Quella è la legge, quella è la pensione Gianni, la minima è 450 euro, il massimo è, non arriva neanche a 800 euro, se vuoi te lo faccio anche vedere perché l'ho fatto da poco un conteggio, me l'ha mandato da poco il conteggio questo mio collega, ex collega. Il minimo è 450 euro con 75-80%, il massimo non arriva neanche a 800 euro già, Ma di cosa siamo qua vedendo? È una truffa, è una truffa. Se uno è invalido dovrebbe prendere lo stesso stipendio che prende uno che sta lavorando per conto mio, capito? Vabbè, ma la legge è quella lì, non c'è poco da fare. Staremo a vedere. Ehi, stai a vedere, stai. Stai a guardare, stai, che loro già vanno avanti. Per carità di Dio. Vabbè, comunque, oh Fra, beh, tu hai preparato tutto, ti hanno risposto? Ma diciamo che mi hanno mandato un messaggio, io mi sono mandato che hanno recuperato già la cosa militare, hanno recuperato, poi questo fatto scientifico, mi hanno detto di aspettare, che stanno verificando tutto qua, stanno verificando. E allora vedo che è gennaio. Sì. Già ce la fai, già ce la fai. No, te lo sto dicendo adesso per muoverti, perché se passa la legge dei 67 anni non puoi andare, non puoi andare neanche con 42 anni di servizio. Ce ne avverne 43 e 6 mesi, capito? Io mi. Fortunatamente ci ho firmato tutto oggi, tutto fatto oggi, quindi adesso la possono portare anche a 80 anni, manco balle balle me la futti. Io devo cercare la documentazione di mio padre, io sono figlio di invalido di guerra, Claudio, può darsi che qualche punteggio me lo dia. Guarda, prova, informati, però cerca di andare col 100% e cercando di avere qualcosa da inserire, qualcosa da documentare, perché altrimenti è un casino, preso con i denti, questo ragazzo va, per carità, ma per camminare avanti, ma tu lo sai che solo anche camminando su va già la diabete, anche camminando su va la diabete, a volte si mette a fare il registro e si trova a vendere un registro, ma la cosa gatto lui va a travagliare a niente, cosa la vuoi far lavorare a quelli veli? Lo so, perché è successo anche via delle vigne una volta, questa signora è andata a fare la spesa, ha lasciato il marito in macchina, è trovata, si è messa a gridare perché pensava che fosse morto, l'ha trovato riverso sul volante, dormito un gatto e cose, e stava un po' calcolando, era diabetico, praticamente ci rimangono questi colpi di sonno. Sì, anche questo. Questo mio collega è così, si droma, evade, non ce la fa più, se c'è una giornata di ma non dico, anche queste giornate stanno facendo adesso, sì, suda camminando, deve essere là tra glicemia a 1000, cosa ne so, non lo so, comunque, è una vergogna totale, vabbè. Comunque Fra, cerca di sedarti un giorno, perché così stavano dicendo, proprio all'Inps stamattina, proprio all'Inps ne parlavano, un po' di gente c'era, parlava proprio di questa cosa, stavano cercando di andare via quest'anno, perché se al prossimo anno aumentano la legge, è un casino, la documentazione deve essere entro fine 2017. Non è così Claudio, la legge del 67 anni inizia dal primo 2019, inizio, non è così. Allora, per noi che dobbiamo andare adesso, va bene anche, e noi possiamo fare domanda anche nel 2018, entro il 2018, non il 2019. Se passiamo al 2019, allora andiamo a 67 anni. No, non mi compreso, non sto parlando dell'età, sto parlando della contributiva, adesso è perlomeno quella che ho firmato io, è 42 anni e 6 mesi, capito? Entro quest'anno, si parla che il prossimo anno la vogliono portare a 43 e 6 mesi. Eia, 43 e 6 mesi la portano. Non è per noi che stiamo andando per la lista, non è per noi, allora tu decidi di ma tu non parli di più, decidi di aumenti, non fanno mai più tu il danno, non è per noi quella lì, è per gli altri, i giovani. Per quelli che andranno più avanti allora, non lo so, questo signore stava parlando di questa cosa, infatti mi ha detto, ah, e tu hai già, no, io mi sto consegnando già La mia domanda è già fatta, io il 1° gennaio prendo già la pensione, no? Non ce n'è problema. Dice no, perché stanno parlando che la portano a 43. Che anzi la portano a 43? Fa vedere la borsa a 43. Sì. una buona pensione, sono contento di esserci arrivato con quell'importo, veramente, una bella pensione, si tirasse a Gesù Cristo di andare avanti. Marco, riprendi Fra. Quella che ci tocca, qua, io la tengo qua. E la tengo, come vai così basso la tengo? Che la chiuma non è in tempo. No, Fra, è buona, è buona. La contributiva nostra è buona, futtidini. Sei quasi a 1,5, tranquillo. Lo so, è così. Me l'hanno già detto, me l'hanno già fatto il giro di cuffi, non totale, però quasi, totale. Ma voglio dire, ho visto la coppia di un mandato, non ti preoccupare. È quasi 1,5, ti dico che sono contentissimo veramente. Va bene. Vabbè. Adesso vediamo. Quando fa dei conti, cosa vi dico? Faccio fare i conti anche io adesso. A me mi toccherebbe con la contributiva 2.200 euro, però lotte che sarebbero più o meno proprio toccate. Con la contributiva con 42 anni di servizio? Ehi, con 42 anni è quella, lotte è quella. Tu vai a prendere netto intorno ai 1.500, 1.480, 1.500, 1.550, dipende, capito? Dipende, io il reddito mio è quello, quindi la pensione mia è quella e sono contentissimo perché sono 250 euro, quasi 300 euro in meno dello stipendio che prendevo, non me la fotti blu più nulla. Il 20% te ne prendono, capito? La banca maternità, poi quando arrivi al periodo pensionistico che ricevi la prima pensione ti ribucano tutti i pazienti. Infatti si chiama penalizzata, è un anticipo per pensionamento penalizzato, però capito? Perché a quel punto lì che se me ne va a lavorare, cioè mi dice rendi, e beh, questa volta mi rimani a casa, poi hanno le pensioni e mi ribili d'ora. Vado a prendere per dire 1200 euro di pensione, cazzo 20% sono 200 euro, piglio 1000 euro, tanto vale che mi do travaglio. Sì Gianni, ti sento, ciao, buonasera. No, sto scendo benissimo, non solo per sì, il segnale è 8, è un po' bassino, però la radio è buona già. No, va bene, Santiago 8, radio 5. Gianni, come lo senti tu a Gianni Voltoio? Ciao Gianni, la radio diciamo che non è tanto forte, la radio normale, ma veniva bene, dai. Poi il segnale non l'ho guardato, vai avanti già. Segnale per te è 4, non è tanto forte, ma ti ascolto, dai, non c'è problema. Perché già la stai modulando? Fino a rame già, cosa vuoi dire? Cosa c'è? Un RG58? Un cavo strano mi sembra, non lo so già. Ora si pure che influisca quello, che ci sia qualche rientro di RF, causato più che dal cavo, bisogna vederlo già. Non lo so. Comunque così stai andando bene. Ok, dai. Gianni doppio rumore, riprendi tu, ciao Volto. Ciao fra, io vado a portare il cane. Ci sentiamo dopo. Fai girare già. Ehi, ciao per buona passeggiata, va che la stai. Marco, ripeti. Non riprende nessuno, vabbè. Gianni, ti volevo dire, ma non è il capo che ti hanno dato con l'antenna quello, perché degli 58 mi sa che c'è un tipo che lo fa di giro. No, ma quello lì anzi, era come una dispersione quel capo di capito. Dovrebbe essere tranquillo. Magari a stazionare, controlla a vedere se c'è stazionare l'antenna, li avete misurati. È 1,4 è un verde. Credo che sia poco, deve essere 1,1, 1,1 a centropanda, poi può anche variare, 1,1, 1,2, dai, ma 1,4 è un segnale da lineare, quando tu attacchi lineare magari può salire anche 1,4, ma liscio deve essere 1, 1,1 massimo. Perché a volte ti fa il canale avanti, senza credere per il controllo tu. oggi al FAT non c'entra niente, tu devi far andare il down e up e basta. Il FAT è quello che blocca, non c'entra niente. Quindi i capi devono essere a 7, o a 7 o a 8. Ho capito, sì, ma il FAT lascialo stare com'è, il FAT non va collegato, il down e up devi collegare e basta. Già guardo io se ce l'ho a 8, capito? Se ce l'ho io a 8 te lo do e così ti fai il connettore nuovo. Se poi lo vuoi già pronto, quel cavo lì che io l'avevo preso sull'altro microfono che avevo, devi chiamare la CS Song e te lo mandano già pronto originale. Sì, che li rispetta. Tu dici, mi serve il cavo originale per MD1V8, ok? E lui te lo manda già pronto, col down e up già pronto, e poi c'è il FAT che praticamente è quello che blocca, capito? Perché c'è, se tu tieni il FAT cammina come uno scanner, capito? Come l'MD100, se ti ricordi, veramente Zagudu, come quello lì. E niente, se tu chiami la CS Song, io me l'avevo fatto mandare, però l'altro che c'avevo l'avevo venduto con 920, capito? Con l'FT920 l'avevo venduto, non ti avrei dato quello che era già pronto. Poi invece mi ho ricomprato quello lì, non lo usavo e te l'ho dato a te, però stai uscendo veramente molto molto bene, vai. Poi quelle cosettine lì te le rivedi piano piano, l'importante è che il microfono funzioni bene. Riprendi Capri 2, io sto andando a portare il cane, dai, ci sentiamo dopo se ci siete. Sì, vabbè, ma come hai detto, se c'è, deve funzionare. Ma magari l'è bloccato da qualche parte, magari non sarà per questo. No, io sono attaccato. Sì, da 6 e da 7. Sì, bella, la modulazione è bella. È bella la tua voce è come verticale. Non so, ma ti abbiamo chiamato in tanti, non so se hai detto solo io, anche Claudio ti ha chiamato, cosa, niente, non sentivi più tu, eri tu che non sentivi. Non lo so esattamente, già, ti dirò una fesseria, praticamente lui la casa ce l'aveva dietro, hai visto dove c'era il mercato all'ingrosso prima, lì dietro ce l'aveva la casa, passava la ferrovia. Non so perché anche Luciano, che stava in dubbio, il padre quando ha finito di fare, aveva la casa delle ferrovie e quando ha finito di lavorare, che è andato in pensione, si è dovuto comprare una casa perché l'hanno mandato via. Vabbè, facciamo girare, già ne ripreso. Che è rimasto, l'attarino ha finito di mangiare. Scusate, chiedo da mamma e stiamo facendo vedere volantino di Lidl, visto che non è di quanto l'abbiamo guardato online. Cosa c'era? Roba interessante, ma bah, sempre roba da mangiare, poi vestiti da sera per donne, scarpe, pochette, pullover da uomo, vestitini da bambino e bambina, qualche cosa elettronica tipo stazione saldante, aspirapolvere liquido, che aspira anche liquido, e solite menate. Poi c'hanno il misuratore di pressione digitale da braccio, il pulsosimetro per misurare la saturazione, quello che mette al dito, no? Saturazione di ossigeno nel sangue, misuratore di temperatura da fronte, che avevo preso io, lo faccio da una tendia all'altra, no? Così un po' nel giro di 2-3 secondi ti misura la temperatura subito, è comodo. Naturalmente va confrontato con termometri buoni tipo a mercurio, che però non fanno più, termometri buoni, insomma, va confrontato, però grosso modo ci siamo già. No, io ho quello digitale. No, quello a mercurio non si può più vendere, è proibitissimo. Una volta è successo a mia sorella, praticamente si è rotto e il mercurio gli è andato nei gare di d'oro, gli ha fatto tutti i danni di argento. Si è messa anche a piangere perché c'era la ragazza fidanzata, il ragazzo, la fede, tutto color argento si sono fatti. Perché il mercurio in contatto con l'oro fa all'amalgama, si amalgama e diventa una cosa strana, meglio, e quindi va bene, è vero, poi sai, mercurio una cosa l'onfia, inquina, quindi l'hanno tolto di mezzo, ma io spero che nuovi termometri buoni, dico, comprati in farmacia, cioè precisi, siano altrettanto buoni. Noi ne avevamo uno a mercurio da mettere sotto l'ascella, o in bocca, o anche in altri posti volendo. Era mercurio, ma era bello preciso, bello preciso. Questo raffronte, diciamo, è più immediato, no? C'è un sensore infrarosso, tu lo passi da una tempia all'altra, attraverso la fronte, nel giro di, vediamo, 1, 2, 3 secondi e ti misura la temperatura. Sì, è una specie di impugnatura, diverso dai normali termometri, dai. Guarda, sono simili a quelli che hanno in Cina, sai, cioè quando ci sono influenze virali, no? Lo puntano alla fronte e ti dice la temperatura, questo è un po' diverso, devi passare da una tempia all'altra, no? E ti misura tramite infrarossi la temperatura del corporeo. Pensavo che sia il tradizionale. Per mercurio davano Pepsi, solo che se ti cadeva in terra si faceva tutte le palline, un casino. E mia sorella era andata a raccogliere le palline e diceva attaccate tutte da lì. Veglia. Ah, poi volendo si può mettere anche nell'orecchio, ha un adattatore per mettere nell'orecchio, in questo caso devi togliere un grado dalla temperatura misurata. Comunque trovandoli mi sarei accaparrato un bel po' di termometri a mercurio, però lo devo fare per tempo, ormai è troppo tardi. E tu te li ricordi quei bellissimi termometri a mercurio con la colonna verticale? Quelli proprio degli anni 60, avevano la colonna di mercurio verticale. Quelli erano una figata. Ma non sai cosa facevo io? Aprivo il contenitore del mercurio e ci giocavo col mercurio, me lo mettevo sulla mano, lo facevo andare a terra, ci faceva palline, e poi andavi a prenderle, non riuscivi a prenderle. È vero, è vero. Scappano. È pericolosissimo, trova qualche taglio, qualche cosa, che è inquinante al mare. Ma anche il contatto con la pelle era tossico, io ne combinavo ma nessuno mi vedeva, ecco perché sono così adesso, sarò avvelenato da mercurio. Vai Capri. Quello non lo so, io so solo che qua c'è un po' di tutto, c'è addirittura, ci sono c'è il basamento pesante, ci sono le pincette che ti tengono ferma la cosa, c'è il portasaldatore, la lente di ingrandimento, è tutt'uno, tutt'uno. E dipende, già, può uscire un pezzo difettoso. Io vabbè non ne prendo, piuttosto io avevo comprato, non mi ricordo se da internet, avevo comprato il basamento dove c'è quella spirale di acciaio per tenere inserito il saldatore. Beh, l'ho persa in casa, non l'ho più trovata. Perché ho preso uno di PC e ce l'ho ancora, quello lì va benissimo, salda bene, ti fa proprio la saldatura lucida e niente, funziona bene. L'avevo preso una volta dai cinesi, cavolo, come l'ho attaccata la presa, ha scoppiato tutto, la pila di un buco. Cavano generale, da giubbattone. Cavano generale, da sotto giubbattone. Perfetto, perfetto, anche perché così è una radio bella, non è la solita radio urlata, chiarisci troppo forte, così è perfetto. Gliel'hai detto a Claudio che come hai toccato l'impedenza o quello che era, ha migliorato molto, prima era impastata, poi come hai toccato quella era un bijou, e tuttora è un bijou. E vabbè, interessante che funziona pure. Sì, è bella perché non è né gridata, la voce è strappata, è bella limpida e presente. Eia, ti fai, insomma, tutta la linea, dai. Eia, cosa ha detto che è un Yaesu 747, mi ha detto, cos'è? Ah, 757G. Adesso me lo guardo su internet, dai, che sono curioso di vedere come è fatto. Ecco, sto aprendo, eccolo qua, metto le immagini, esci a vedere, eccolo qua. Sì, è bello, è cappello di stipica. Guarda, io quando negli anni 80, quando ero ragazzino, che in edicola vedevo esposto tipo CQ elettronica, quelle cose lì, che vedevo queste radio in figura, la bava mi usciva, lo sai, che sembravano una specie di verdolino militare, sembravano quasi un grigio militare, belle, belle veramente, bella, di aspetto mi piace. Io ma sto Gianni, sei dormito? No, aspetta, sto controllando. Ah, che ho tolto, non fai niente. No, c'era la colonia sua con l'alimentatore incorporato. È un bel pezzo. L'avevo trovato quando ce l'avevo io con la radio, cioè avevo tutta la linea completa. Era molto molto bella. Più bella della linea del 140, perché è molto più lunga, poi è più bella, molto più bella. Che mi metto la caccia e già te lo trovo. Il pezzo che ti manca, dai, tanto adesso c'è il microfono, c'è la radio, c'hai già tutta la sua roba originale, già riusciamo a trovarla. Sì, questo microfono è solo il D1B8 e il D1C8, che sono uguali, sono solo attaccato l'impedenza diverso, sono nati proprio per quelle radio lì, dal 7B in poi, capito? No, funziona bene quello, io ho avuto di quei microfoni 4-5 io, poi chiaramente li vendevo assieme alla radio, l'ultimo l'avevo venduto con l'effettivo per 20, di quello lì, poi mi era capitato quello che ho dato a te, però non lo usavo, la verità, non lo usavo, e quindi siccome ti ho detto tu aggiustati la radio, se ti aggiusti la radio io ti do il microfono, così abbiamo fatto, almeno tu lo usi, capito? KK. Avanti Marco, in un altro po' poi vado a cenare. Ehi, infatti non tarderemo, dai. Ehi, sono le 8 e 4 minuti. 3 minuti, va bene. Ci sarebbe il telegiornale, me l'avrei voluto guardare e oggi non l'ho guardato. Mi sa che vado subito io invece. E ti lascio accompagnare Gianni e capri 2, ok? Poi ci sentiamo domani o quando capita. Educazione è così, anche a noi, mamma, non mangi però, siete a tavola, era così, i vecchi avevano questo tipo di inquadramento, e va bene. Ciao Gianni, buona cena, buon tutto, saluti a casa, dai, ci aggiorniamo già, lascia tutto così, che stai andando più che bene, più che bene. Ciao anche a Marco, ciao a Gianni Opiorumi, tanto Gianni adesso scende a portare il cane, quindi io mi allontano, lascio tutto acceso, mi allontano, dovrebbe essere già pronto, dai, se ci siete a dopo, altrimenti a domani. Buonanotte a tutti, salutando anche chi è in ascolto sul canale 10, ciao. Ehi, dai, riprendo io, sono tutti cordialmente, no, stavo cercando lo Yaesu 757 che c'ha già, è un bel apparecchio, esteticamente è molto bello. Sì, io lo comprai nuovo, la maglia lontana, il 757, poi è uscito il 757 GX e poi è uscito il GX2, li ho avuti tutti e due. Esteticamente sono bellini Gianni, però sinceramente parlando, te lo dico per esperienza vissuta, il 140 le fa 7-0, capito? Sia come modulazione, come prestazioni, come tutto. È una radio a sintonia continua, però Gianni già lo sa, è bella, bellina, funzionante, però il tempo del che non lo dava. Va bene, dai, ci sentiamo signori, statevi bene, a domani, ciao, passo e chiudo. Aspetta Claudio, ma perché Mario ha venduto anche Yaesu? Mario vendeva tutto, vendeva Yaesu, ma io come Kenwood, su ordinazione però, Kenwood qualche volta se li faceva mandare li metteva in vetrina, però se volevi Yaesu io come ce li aveva, lui era grande, io li ho preso tutti e due da lui, li avevo presi, sia il 757 che il 757 GX2, capito, tutti e due. Aspetta, si sarà arricchito con voi, eh? A fondo di radio vendeva Mario, ma stai scherzando? Mario c'era anche l'assistenza, c'era un problema, era molto bravo. Nel laboratorio aveva, caspita, sopra il soppalco c'era un bellissimo laboratorio, alla grande. Però non è via Gan, così è. Cari Mandrone, grazie a avere i soldi facili a Mario. Sì, infatti l'ingegner Meloni si occupava molto della parte delle discoteche, erano molto bravi anche Mario tuttora, per carità, io da tanto non lo vedo, ma ci siamo visti da poco, cioè ci siamo visti, ma da tanto non lo vedo adesso, comunque era molto bravo per gli impianti discoteca, facevano Marco, capito, impianti discoteca proprio alla grande, erano molto molto bravi, penso i migliori, però vendeva anche HF su ordinazione, soprattutto in Kenwood, ma vendeva anche su ordinazione, ma adesso non c'erano problemi. Va bene, vado anch'io, se no qua ci va a parlare tutto, che poi alle 8:30 c'è la Juventus, c'è la Champions stanotte, dai. Ciao a tutti signori, buon divertimento, buon fine serata, buon tutto, a domani, ciao. Ciao, ciao, ciao, già. Yeah, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ma non sarebbe venuto da poco da noi a fare l'impianto stesso? No, oh, sempre bravo, sempre molto bravo Mario su quelle cose, non si scherza. Impianto stereo microfonico dalle casse per chiamare la gente, c'è quella cosina. Beh, quello faceva lui, soprattutto gli alberghi, le cose, faceva tutto lui. Va bene, vai a portare un gale già, che sono le 8:10, ciao. Ti andavo, ciao, ciao.